Radio 24 Reportage. Com'è cambiato il design italiano? Dal gusto regionale a quello internazionale. Di Nicola Scevola. Oltre ad essere uno dei settori trainanti della nostra economia, oggi il design italiano è fra i volti più riconoscibili del Made in Italy. Prima di diventare un marchio a carattere nazionale famoso nel mondo, però, gli stili d'arredamento del nostro paese erano molto più regionalizzati. I mobili di una casa di Roma erano diversi da quelli di una casa di Milano, quanto lo sono le cucine tradizionali delle due città. Poi c'è stata un'accelerazione negli scambi culturali fra le parti del paese. Sono arrivate aziende che hanno puntato con successo sul mercato estero e le caratteristiche regionali hanno semplicemente perso peso. Camminando fra gli stand del Salone del mobile, oggi è difficile riconoscere la provenienza di un'azienda dal genere di mobili che produce. In pratica si è andati verso un'internazionalizzazione del gusto italiano, che è più raffinato, ma anche in un certo senso più uniforme. Ma chissà se in un futuro vicino potrebbe accadere un'evoluzione contraria, come è avvenuto nella cucina dove si è tornati ad esaltare le cipolle di Tropea o le olive di Albenga. Parliamo di questo fenomeno e delle sue conseguenze con alcuni dei protagonisti del design italiano che incontriamo fra i padiglioni del Salone. Piero Lissoni, architetto e designer di fama internazionale, ci aiuta a ricordare le fiere di un tempo in cui alcune tipicità territoriali erano talmente caratterizzate da risultare fin quasi ridicole. Mi ricordo anni fa c'erano dei padiglioni nelle vecchie fiere con gli artigiani della Toscana e per forza gli artigiani della Toscana dovevano arrivare con cuoio trattato come se fosse invecchiato 500 anni dentro Palazzo Vecchio, piuttosto che con questi ferri fatti in un certo modo, piuttosto che con tutte queste cornici color oro. Per un periodo certe caratteristiche regionali furono anche accentuate dallo sviluppo di poli artigianali in diverse parti d'Italia, come ci spiega il designer Rodolfo Dordoni. Questa era una situazione che si era creata un po' di anni fa, quando oltre al polo produttivo della Brianza era cresciuto il polo produttivo veneto, poi successivamente quello pesarese e tutto. A quel punto c'era una distinzione ed era una distinzione anche un po' antagonistica tra le varie situazioni di produzione. Oggi credo che più che una questione di gusto regionalizzato ci sia un carattere regionalizzato. L'atteggiamento dei romani è diverso dall'atteggiamento dei milanesi. Il milanese tendenzialmente ha una sobrietà un po' più riminiscente all'Asburgo, insomma, e quindi è un po' più riservato. E in questa cosa, nel riservato, si riflette anche l'uso di certi materiali, certi colori, piuttosto che Roma ha innanzitutto una luce differente in termini climatici, atmosferici e tutto, ha un carattere molto più aperto perché è una città molto più aperta e conseguentemente anche nell'arredo i materiali o gli allestimenti che vengono fatti in qualche modo risentano di questa cosa. Cioè, se poi va al sud allora lì c'è il sole. Allora di nuovo questa cosa è accentuata ulteriormente. Oggi credo che il sistema è diventato più compatto e che adesso l'immagine del Made in Italy, così come viene chiamato anche per il nostro settore, sia più uniforme. Anche Dario Curatolo è della stessa opinione. Al Salone del Mobile l'architetto romano ha coordinato un'installazione che coinvolge 64 aziende italiane che hanno creato 5 appartamenti situati in altrettante città. E nonostante le case siano sparse per la penisola, l'installazione mira appunto a presentare il lifestyle italiano come un unico sistema. Devo dire che sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Dordoni. Io non leggo più un sistema di scuola che possa essere legato a un pezzo di territorio piuttosto che un altro. Mi sembra invece che c'è uno spirito legato a un nuovo sistema di internazionalizzazione del design e soprattutto più legato al gusto che non a un fatto regionale. Come sono evoluti quindi gli stili dell'arredamento nelle case italiane? Per farci un'idea l'abbiamo chiesto a Giulio Cappellini, grande firma del design contemporaneo. Il termine con cui potrei definire l'attitudine del consumatore attuale è libertà. Libertà di mixare prodotti diversi, disegnati da designers diversi, prodotti anche da aziende diverse in diverse parti del mondo. Si vive molto di più la casa all'interno degli appartamenti, anche se la struttura degli appartamenti è rimasta la stessa. Non abbiamo i grandi loft in Italia, quindi abbiamo la sala da pranzo, la camera da letto, il bagno, la cucina, però io dico sempre che c'è un sempre maggiore nomadismo domestico. Nel senso che i locali diventano sempre più ibridi. Prima la cucina era un luogo di servizio dove cucinare. Oggi in cucina cucini, ricevi gli amici per un aperitivo, lavori col tuo computer, è diventato un luogo da mostrare, un luogo conviviale. Il living room non è più il salotto formale, sono queste grandi zattere dove puoi ricevere in modo informale gli amici o sdraiarti a vedere la televisione o vedere un film con i tuoi cari. Ecco, la terrazza, anche chi ha un piccolo balcone da un metro per un metro, l'attrezza come se fosse un grande giardino, il bagno che è diventato da un locale di servizio la stanza del benessere. Quindi c'è veramente un atto, questa grandissima trasformazione, e noi dobbiamo cercare di creare degli elementi, quelli che chiamo un po' immobili nomadi, quindi alcuni mobili che possono funzionare bene in diverse parti della casa, anche che siano magari facilmente trasportabili e spostabili da una parte all'altra. Quindi devo dire che veramente questa libertà si sta facendo sentire molto. In passato c'era chi si faceva la casa classica, chi si faceva la casa di design. Oggi il vero trend è invece proprio lavorare sul mixare continuamente le cose. Questa vocazione nomade internazionale del nostro design ne è diventata anche la sua forza. Oggi le imprese italiane vendono all'estero oltre la metà dei loro prodotti, con punte che superano il 70% per aziende leader come Cappellini, Cartel, B&B e Floss. E mentre il mercato domestico ha subito un calo di circa il 30% dal 2008, quello estero continua a crescere, come ci conferma il viceministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Questo è un settore che fa 8 miliardi di saldo commerciale, che ha una crescita delle esportazioni superiore alla media nazionale ed è un settore che è internazionalizzato circa, diciamo, per il 65%, quindi sono dati molto elevati. Pensate, lo scorso anno il 23% di aumento di vendite in Cina di mobili italiani, 12% negli Stati Uniti, insomma dei mercati che tirano e tireranno ancora di più quest'anno con quest'euro. Fin dal dopoguerra i progettisti più intraprendenti cominciano a pensare che il loro modello di appartenenza sia globale e non più solo regionale o nazionale. Questo segna l'inizio di una trasformazione del DNA del design italiano che dura ancora oggi. Bene, le caratteristiche regionali si sono ormai attenuate. Ma allora cosa distingue veramente il design italiano di oggi? Per capirlo ci rivolgiamo ancora una volta a Lissoni. Il design italiano esiste perché ci sono le industrie, perché ci sono gli artigiani, perché c'è gente che sa costruire o con le mani o con la conoscenza o con un computer o con un centro di lavoro controllato da X numero di computer o tutto quanto mischiato assieme. Questo è il valore del design italiano. Tutto il resto, i designers, l'intellettualità che gira intorno è una specie di sale o, se preferisce, pepe su questo brodo primordiale, ma tutto il design può esistere solo se c'è questa conoscenza diffusa, e la conoscenza diffusa è il trucco italiano. In altri paesi parlano di design, ma poi non hanno le aziende che producono design, non hanno la conoscenza diffusa, quindi se devono risolvere un problema devono risolverlo da altre parti. Il design italiano, dunque, non è tanto legato alle menti di chi progetta le forme, quanto alle capacità di chi le sa realizzare. In un altro settore principe del Made in Italy, come la cucina, ultimamente si è tornati alla valorizzazione delle specificità territoriali. È possibile dunque ipotizzare che nel design si arrivi alla stessa conclusione tornando ad esaltare le forme regionali per consentire una maggiore personalizzazione dello stile? Le opinioni che abbiamo collezionato fra gli esperti incontrati al Salone sono per lo più negative. Lasciamo a Carlotta De Bevilacqua, punta di diamante del design di illuminazione, il compito di spiegarci il perché. Il vero problema è la globalizzazione, non è tanto un distretto italiano, né forse neanche europeo. È ascoltare le necessità del mondo e andare a intervenire con appunto un dialogo con le culture del progetto, perché in realtà il dialogo è con l'architettura, cioè con gli autori dell'architettura. Ma nel cibo vediamo che, per esempio, per quanto riguarda la cucina italiana, che è sicuramente una delle eccellenze insieme al design, si è verificata una regionalizzazione, un'esaltazione della regionalizzazione, per cui c'è la cipolla di Tropea, il vino della particolare regione. Secondo lei esisterà, potrà andare in questo senso a un certo punto il design? Insisto ancora una volta, se l'Italia vuole ancora tracciare come Piero della Francesca la prospettiva per la città ideale per il mondo, o soprattutto come Leonardo, noi dobbiamo pensare al mondo. Chi fa un prodotto industriale ascolta, risponde ai bisogni dell'uomo, ai bisogni del pianeta, ma nello stesso tempo dà un'unica risposta.